Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Oh, ci si avvicina al Natale. Io, per fare una cosa più natalizia, ho messo lo smalto rosso alle dita delle mani. Ma va come ti sta bene, va come ti sta bene. E alle dita dei piedi. Un mio amico diceva: Madonna, Rosita, con le mani, c'è le mani da... Non puoi, andiamo avanti con questa roba qua. Comunque, ho le mani natalizie. Hai le mani natalizie. Mettiamola così, ho le mani natalizie. Allora, si sta avvicinando il Natale, però noi dobbiamo concludere il nostro articolo fantastico di Focus, quello scommetti che... Ho tenuto compagnia per 10 settimane. Caspita, davvero. Mi spiace anche che sia finito, perché i consigli non sono mai... Esatto. L'articolo scommetti che ti convinco, cioè avere ragione non basta, bisogna esibire prove scientifiche e non basta nemmeno quello. L'abbiamo diviso in 10, e l'articolo è diviso in 10 punti. Quindi praticamente come fai a convincere qualcuno, come affronti una discussione, perché questa cosa ci serve con gli altri esseri umani, ma ci sono dei paralleli che abbiamo tracciato di volta in volta su questi 10 consigli nel mondo del cane. Io dico il mondo delle bestie umane, che sono le peggiori, e Angelo dice il mondo meraviglioso dei cani. Allora, i punti erano: il primo, ascoltare; secondo, sincronizzarsi con l'altro, ovviamente; terzo, identificare le radici; quarto, lasciare argomentare; quinto, discutere di persona; sesto, stimolare l'autostima; settimo, non avere fretta; ottavo, focalizzarsi sui fatti; nono, usare i paradossi; e decimo, ipotizzare di avere torto, a parte me, ovviamente, che ho sempre ragione. Infatti mi stavo chiedendo, ma com'è? Lo dici con tanta enfasi, ti piace così tanto sta roba? No. Non mi sembrava nella vita di tutti i giorni. No, vabbè, ma io, amore, sono un'eccezione che conferma la regola. Quindi allora, io sono... tutti quanti noi, quando discutiamo con qualcuno, dobbiamo ipotizzare di avere torto. Tra l'altro Focus lo dice, perché sennò mandi a monte anche tutti gli altri punti, tutti noi tranne Rosita Celentano, perché lei è impossibile che abbia torto. Esatto. No, non c'è mai una volta che io possa fare quello che mi pare, piuttosto. Appunto, come dice Raimondo. Allora, non devi dare per scontato di avere ragione. È difficile ammetterlo, ovviamente, ma questa possibilità esiste. Come si tratta, anzi, di un punto fondamentale, senza il quale i 9 trucchi precedenti falliscono miseramente. Se partite con la certezza che la vostra idea sia quella giusta, il vostro interlocutore si sentirà manipolato e preso in giro. Quindi questo è il punto più importante per cercare forse di convincere qualcun altro. Sì. Devi comunque sempre metterti in discussione, sempre. È un po' un sinonimo di umiltà, no? Assolutamente. Sì. Ma con i cani succede la stessa cosa, sai? Quindi? Cioè, tante volte noi diamo la colpa al cane per le cose, considerando che lui ha torto e noi abbiamo ragione. Ti faccio degli esempi, per esempio. A volte ne abbiamo parlato. Per esempio, il cane che fa pipì. Allora, molte persone pensano che quando il cane infatti, fa pipì in casa sia un dispetto. Fa per farti un dispetto. Io ho recentemente scritto un articolo sul mio blog su questo, e in realtà non è vero. Il cane non fa dispetti facendo pipì. Esatto. Se fa pipì in casa ci sono altre motivazioni. Ce ne sono diverse, ma una di queste è semplicemente che a volte il cucciolo non riesce a trattenersi. Io mi ricordo, per esempio, questa è una roba veramente che chi ci ascolta deve far caso. Noi, quando adottiamo il cane, prendiamo un cucciolo, ce lo portiamo a casa, l'abbiamo staccato dalla sua famiglia, e ormai sappiamo, per averci seguito, no, a Chiedimi se sono felice, quanto è importante il legame primario con la mamma e con i cuccioli, che dà conforto. Lo tiriamo via da lì, si fa un viaggio in macchina, viene a casa nostra ed è spaesato. Aspetta, sempre se questa è la trafila, perché a volte passa dalla mamma e viene mollato nell'allevamento e isolato, poi venduto dall'allevamento al negozio. Nel negozio rimangono soli la notte in mezzo ad altri cani o gatti, odore non ha mai sentito, poi da lì passa a casa. E quindi è un dramma vero che vive il cane. Poi noi lo prendiamo, lo chiudiamo nella porta della nella cucina, esatto, di notte, e desideriamo che non uggioli, non si lamenti perché deve stare là, perché cosa vuole di più? Noi, certo, noi lo amiamo, ma il cane come fa a saperlo? E non deve neanche fare pipì, sebbene i cuccioli non riescono a trattenerla, ok? Quindi in questo caso qui il proprietario deve capire che se il cucciolo fa pipì lì è normale, e se pensa che quello sia un dispetto, ha torto. Così come ha torto, per esempio, quando noi arriviamo a casa, il cane ci salta addosso e noi, per buttarlo, per dirgli che non si può fare, gli diamo uno spintone per lasciarlo giù. Eh questo spintone dice al cane: dai, continuiamo a giocare. Quindi in quel caso siamo noi che abbiamo torto, non è il cane che sbaglia. Io credo che con i nostri cani abbiamo 99% delle volte torto, e credo anche questo, toglimi tu questo dubbio, gli animali non fanno dispetti. No. Con intenzione. Non tutti, ci sono degli animali che fanno dispetti, per esempio i primati tra di loro a volte sono un po' dispettosi, sì, le scimmiette sono un po' dispettose. Va bene, sono un po' giocherellone e dispettose, però non c'è il dispetto quello come lo immaginiamo noi. No, non lo fa sicuramente perché vuole punirti, capito? Esatto. Perché tante, no, l'ho lasciato da solo a casa, siccome lui non vuole, allora mi ha punito facendo pipì, non esiste. Esatto. Non questa, è questo, quindi sfatiamo questa cosa, poteva essere un me l'ha detto mio cugino. Eh sì, è un grosso me l'ha detto mio cugino. Un grosso me l'ha detto mio bella cuginata. Una bella cuginata. Sai qual è un'altra cosa in cui noi abbiamo torto? Mm-hmm. Quando pensiamo che il cane faccia le cose perché si sente il capobranco. Tipo, tira il guinzaglio perché me l'ha detto mio cugino, no? Questa roba qua. Tira il guinzaglio perché lui si vuole sentire il capobranco. Il capobranco sta sempre davanti a tutti. Quante cazzate dice mio cugino? ne dice parecchie, anche perché voglio ricordare che i gruppi di cani randagi, i gruppi di lupi, sono degli assemblamenti familiari, non militari. Cioè, certo. non c'è la gerarchia militare lì. Ma no, ma le cose peggiori credo che le abbiamo inventate noi uomini, fondamentalmente. Se guardiamo la natura, c'è un equilibrio talmente perfetto che l'uomo è andato a sfasciarlo. E difatti. Quindi, riassumendo, che cosa possiamo trarre da questo insegnamento? Che quando il cane fa un comportamento indesiderato, quando noi discutiamo, tra virgolette, con il cane, dobbiamo assumere anche la posizione più umile e più saggia di chi potrebbe avere torto, e quindi chiedere che cos'è che non ho fatto per questo cane. E soprattutto che magari non abbiamo capito qualcosa che lui sta cercando di indicarci con questo, un comportamento piuttosto che un altro. Mi chiede una volta: ma il mio cane tira il guinzaglio, poi vai a dire: ma quante volte esce di casa, dal giardino, il tuo cane? Quelli dicono magari una volta a settimana. Ma una volta a settimana è pochissimo, è ovvio che il tuo cane sta tirando il guinzaglio. È già tanto che ti tira solo al guinzaglio. Lì siamo noi che abbiamo torto, perché il cane dovrebbe uscire più spesso, dovrebbe uscire tutti i giorni. Occupati di questo e non della tecnica per non fargli tirare il guinzaglio. Bene, benissimo, abbiamo finito con questo articolo di Focus. Adesso facciamo una breve pausa e subito dopo parleremo di alimentazione. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Gli abbiamo mai chiesto al cane se è felice di mangiare quello che mangia? Le crocchette. Sai che potrei far passare un pezzetto della mia commedia, che c'è tutto un dialogo con Pino Quartullo. Bellissimo. Anzi, io sono in tournée con questa commedia che si intitola Qualche volta scappano, ed è la storia di un cane che abbandona la coppia esasperato. A un certo punto e nell'analizzare parla... i perché, cioè a un certo punto ci domandiamo se non se n'è andato perché gli diamo solamente le crocchette. Allora, in riferimento a questo, c'è appena stato un servizio su Report, no, Rai 3, da parte della Gabanelli. A me è un servizio che è piaciuto moltissimo, che sì, ha fatto anche a me, sul mangime industriale per cani, che ha sollevato un interrogativo da parte praticamente di chiunque abbia guardato quel servizio, cioè da parte dei possessori di cani e gatti, e cioè: ma allora posso dare una dieta casalinga, un'alimentazione casalinga a base di cibo fresco? Questa è la domanda chiave, il nodo a cui noi vogliamo dare risposta. E allora, per riuscire a darvi meglio risposta, abbiamo invitato con noi un'amica di Radio 24, che è Barbara Gallicchio, medico veterinario, esperto in nutrizione. Ciao Barbara! Ciao. Ciao Barbara! Ciao. Allora, tu avrai visto questo servizio di Report. Sì. Cosa ne pensi? In realtà l'ho visto su Rai Replay, perché durante la trasmissione in diretta ero su un treno e tutti mi scrivevano. Finalmente! E lì hai capito che c'era qualcosa. Stai guardando Report? Esatto. No, non sto guardando Report perché non riesco a prendere la linea. Però effettivamente sono stata informata in diretta di tutto quello che, insomma. Cosa ne pensi di questo servizio? Veritiero, non è veritiero? Cosa dici? Sì, il programma naturalmente non è piaciuto a tutti, perché per esempio i veterinari intervistati sono stati solo veterinari, diciamo così, a favore del cibo fresco, e quindi nessuno ha presentato l'altra campana. Certo. No? Come dire. Certo. E quindi è sembrato che fosse fazioso, diciamo così, da un certo punto di vista. D'altronde lo scopo del programma era quello di sollevare un interrogativo e istanze sulla bontà di questi cibi industriali, quindi è un po' logico in fondo che... Quindi non si siano intervistati certo. quelli a favore, anche se naturalmente esiste una componente della popolazione che può essere a favore, cioè quella che non ha tempo, che non cucina, che infatti. Non vuole cucinare neanche per sé. E quindi diciamo i vantaggi che normalmente si sente dire a proposito delle crocchette è: non ho tempo, gli do le crocchette, in ogni crocchetta trovo un mangime completo e bilanciato, cosa che invece è difficile fare con il cibo fresco, è più comodo, magari uno pensa che costa anche meno, via dicendo. Mentre il report ha sollevato anche dei contro, per esempio che il fatto che buona parte di questi mangimi, forse non tutti, però vengono realizzati con degli scarti, no, di macelleria, il fatto che in proporzione la carne che trovi lì dentro spesso costa molto di più rispetto alla carne che tu puoi comprare in macelleria, che nella maggior parte delle queste scatolette si trovi solo il 5% di carne, no? Perché per legge il minimo mi sembra che sia il 4%, il 5%, quindi tu trovi scritto lì sopra pollo, ma in realtà è soltanto per il 5% c'è la carne, poi per il resto sono, non so, derivati, mais, non so che cosa ci sia sopra. Però lo paghi come se ce ne fosse il 90. Eh sì, ha sollevato anche il discorso dei cosiddetti cani assaggiatori, cioè questi mangimi vengono testati su animali e lì dentro non hanno fatto entrare la truppa, non hanno voluto far vedere come stessero questi animali, nonostante avessero però preso. Hanno fatto vedere il video di PETA.org, hanno fatto vedere un video di PETA, ovviamente voglio essere attento a questo, cioè quel video lì non rappresenta probabilmente quello che succede in tutti questi, no, ma sicuramente ci sono quelli che non fanno queste cose, che usano dei prodotti sani e che non fanno la sperimentazione, ma ci sono molti e probabilmente alcuni anche conosciuti che invece fanno quello che viene riportato sul report, giusto? Penso di sì. Barbara, ci allora, sei? Allora, per quanto mi riguarda ci sono due posizioni delle persone, dei proprietari di cani, che quando magari vengono e io gli propongo la dieta fresca hanno due tipi di reazione, di posizioni. Cioè, primo, ma come, c'è tutto dentro nel mangime completo, certo. Quindi quello che sto facendo è il meglio. E l'altro è io però guardi non ho tempo, no? Quindi le due obiezioni sono queste. Primo, ma è possibile fare da mangiare al cane in modo che abbia tutto quello che gli serve? E l'altro è invece un atteggiamento diverso: non ho tempo vuol dire che so che in effetti potrei comprare gli alimenti freschi e averne il controllo, ma non ho tempo, no, e quindi preferisco, diciamo così, è una situazione in cui si cerca il compromesso, no? Tra le esigenze del proprietario e le esigenze del cane, perché alle volte purtroppo non possiamo dire tutto al cane, il proprietario bisogna che si ingegni, magari il proprietario ha una famiglia complicata, degli orari complicati, insomma non tutte le persone vivono per il cane, molti vivono con il cane, no? Quindi il cane si deve adeguare alla routine. Certo che se uno ha una famiglia con due figli e insomma cucinare bisogna cucinare, allora ecco che diventa subito più facile, no? Sì, certo. Mettere in a terra anche una ciotola per il ma cane, certo. Ecco. Ma certo, io devo dire che ho fatto questo passaggio diversi anni fa, perché anch'io devo le crocchette, poi devo dire proprio grazie a te Barbara, a un certo punto mi sono interrogato, no? E allora la cosa difficile all'inizio è appunto il fattore tempo, dice ma riuscirò? E in realtà devo dire che una volta fatto il passaggio, chissà che cosa pensava uno di dover impiegare come sì, tempo. Sì, anche perché realtà. Anche noi mangiamo, Sì, quindi in realtà non sì, è che sembra sempre complicato, in Fatto. Realtà non è affatto complicato, non lo è stato per i probabilmente 30.000 anni passati, no? Esatto. Nutrire i cani non è stato complicato, come quando dice alla gente che i cani possono mangiare i derivati del latte. Esatto. E ti dicono ma veramente, e non so, magari hanno un maremmano e che cosa pensano che i maremmani mangino quando sono al pascolo? Sì. Mangiano la carne piuttosto che le scatolette piuttosto che le crocchette. I derivati del latte sono stati diciamo la base dell'alimentazione di tutti i cani coinvolti nella pastorizia, nei cani che hanno vissuto nelle fattorie eccetera, perché sono cose che sono sempre presenti, no? Vedi? Quelli lì, le uova, ecco, per esempio, che ci sono sempre più, chiaramente gli avanzi della cucina, oggi siamo in grado di fare qualcosa di meglio che dare gli avanzi della certo. cucina, per quanto Gli avanzi non siano, gli avanzi se sono avanzi nostri non fanno male a noi, maggior ragione non dovrebbero far male al nostro cane. La mia collega ha avuto una signora che le ha detto che aveva fatto i ravioli al branzino per la nipotina, che li voleva tanto, i ravioli di pesce, poi ne erano avanzati tanti e li avevano buttati via perché hanno temuto che al cane facessero male. Non ci voglio credere. Fra l'altro, guarda, questo, si no, aprica... questo è qui che si accade nell'assurdo, sì, esatto. Capisci? Ho il grasso della bistecca, lo butto via, no? Allora, le persone che dicono: ah, ma le porcherie che abbiamo noi nei piatti non gliele do. Ma scusi, ma lei cosa mangia? Sì, esatto. Le porcherie che nel piatto, a me è fantastico, a me mi sembrano lungimiranti queste persone, no? Allora, sì, io invece con te ho scoperto che di base gli si può dare tutto, dovrebbero anche loro variare alimentazione, e ci sono tre cose in modo specifico che non gli si possono dare, che è la cipolla, cipollotti, scalogno, quella, insomma, di quella famiglia lì, l'uva, uvo, uvette e la cioccolata. Sì, giusto. La cipolla cruda, perché poi se la cuoci, volendo, la sostanza tossica che ha la cipolla si disattiva. Per il resto, voglio dire, io che ho sono passato, ovviamente gli do da mangiare tutte le cose nostre, gli do anche i nostri avanzi. Pensa, i nostri cani. Sì, perché i nostri avanzi c'è il caso che siano buoni. Sì, esatto. Magari i miei avanzi sono carenti di carne e pesce, visto che sono diventata vegetariana da più di 2 anni. Però, voglio dire, allora gliela prendo la carne e il pesce. Cioè, aggiungi queste cose, perché non vorrei che chi ci ascolta adesso pensa che diamo soltanto avanzi ai nostri cani di pasta e riso, e invece non è così. No, perché... di tutto, cioè... un pochino di yogurt, il biscottino integrale, tutti i legumi, cioè farro, avena, orzo, bolliti, sciacquati, il riso va sciacquato dopo che è bollito. Però Barbara, la cosa fondamentale è far passare questo messaggio, che come non è vero che se mangiano il mangiare industriale il cane si ammala o va a morire, ovvio, uno deve informarsi. La cosa fondamentale è informarsi, imparare a leggere queste maledette etichette che ci sono sugli alimenti. Benedette. Perché benedette, appunto, è vero, scusami. Queste benedette etichette ci sono sugli alimenti, così almeno uno sa che cacchio sta dando all'animale. Perché la cosa che, per esempio, è emersa da report è che sul nostro mangiare, per noi esseri umani, c'è un pochino più di controllo, sugli animali no. Sì, è vero, naturalmente anche nelle persone può passare una conserva o una semiconserva contaminata. Esatto. Perché per esempio le micotossine come il botulino, esatto, come queste cose qui, purtroppo intossicazioni alimentari capitano anche a noi. Noi. Però con noi, certo, c'è più controllo. Certo che c'è più attenzione, no? Per esempio certi pesticidi di fascia rossa che sono cancerogeni, sono definiti cancerogeni, teratogeni, cioè capaci di indurre malformazioni nel feto, non possono essere usati nell'alimentazione umana, proprio non possono, è accettato, e invece nel pet food si possono mettere. Vedi. Per esempio le tossichine è uno di questi, no? C'è stato anche un po' di tempo fa un po' d'attenzione in America, perché il pet food ha le sue regole. E le regole prevedono che, per esempio, la tossichina tu la possa aggiungere, non debba nemmeno segnalarla nell'etichetta, e non hai limiti di quantità. Ma figurati. Quindi tu puoi dare al cane una sostanza veramente tossica tutti i giorni e non lo sai. Cioè, leggere l'etichetta purtroppo non basta. No, non solo non basta. Le tossine non sono mica segnalate. Certo. Cioè, però io spero che un servizio come quello di Report serva a far chiarezza anche da parte dei produttori di mangiare per cani che sono onesti. Sì, ma certo, è chiaro che poi chi è onesto in queste cose ha sempre lo svantaggio, no? Perché penso che il piccolo e onesto finisce per essere presto fagocitato. Sì. Cioè, qui abbiamo delle industrie enormi, no? Che hanno questi mangimi tutti frazionati, declinati in varietà per razze, tipologie, eccetera, che insomma, francamente... fa anche un po' spesso, no? Come quelli che abbiamo visto. Poi magari c'è il piccolo produttore che fa le cose bene e che può benissimo essere assolutamente degno per l'alimentazione, però insomma è chiaro che chi ha il cane in casa, se si compra le cose nella nostra distribuzione normale, magari a chilometro zero, ha controllo non solo sulla qualità degli alimenti, ma anche sulla loro derivazione, allora, nella ciotola. Adesso dobbiamo interromperci un attimo. Tra poco, insieme a Barbara Gallicchio, parleremo quindi di se e come comporre un piatto equilibrato e bilanciato per i nostri amici animali, cani e gatti in particolare. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E dopo il dossier di report sull'alimentazione di cani e gatti, ci sentivamo proprio in dovere di dover fare delle precisazioni. Esatto, allora abbiamo invitato un esperto con noi, Barbara Gallì, che abbiamo già cominciato a parlare con lei prima di questo stacco, e adesso riprendiamo. Allora Barbara, quindi il disco, quello che è emerso è: ma allora io posso dar da mangiare del cibo fresco ai nostri cani? Quindi quella paura di non dare una certa varietà, di non dare un'alimentazione bilanciata, no, equilibrata, possiamo eliminarla. Cioè, se uno è attento, riesce con del cibo fresco a dare un'alimentazione ben bilanciata a cani e gatti. Giusto? Assolutamente, se riusciamo su di noi che pesiamo 60-70 kg, figuriamoci se non ci riusciamo con il nostro cane di casa che magari ne pesa 10, no? Sì, certo. C'è questa paura. Un attimo, essere un pochino logico in queste cose. Sì, sì, è vero. Perché come possiamo programmare la nostra dieta? Mamma mia, quanta proteina greggio introduco oggi, le ceneri, gli zuccheri, devo fare un'integrazione di vitamina A o di vitamina D, quanta ne prendo? Ne prendo troppa, ne prendo poca, cioè noi non facciamo questi ragionamenti. No, no, infatti. Noi cerchiamo di essere un po' elastici, cerchiamo di essere un po' plastici, ogni giorno magari mi manca qualcosa o magari ho un eccesso di qualcosa, ma alla fine della settimana tutto quello che mi serve l'ho preso, sempre che io sia una persona equilibrata, che mangi in modo equilibrato. Certo, se mangio solo cioccolata magari no. E certo, se uno si mangia soltanto la pasta non va bene. Solo patatine fritte. Però è lo stesso problema che incontriamo per noi, non è che siccome c'è con questo pericolo noi allora ci cibiamo di crocchette. Quindi la stessa cosa possiamo farla con i nostri amici animali, dicevamo prima della pubblicità, che magari rivolgendoci al chilometro zero, prodotti di qualità, diamo qualcosa di molto buono ai nostri cani, però deve variare questa dieta nel tempo, no? Poi c'è anche il costo, no? Cioè, esatto. La grande distribuzione ci favorisce tantissimo, perché le carni, tutto quello che è tritato a pezzi o a fette, va in offerta molto presto, quindi paghiamo della carne di qualità super, veramente eccellente, sì. Veramente poco. Mentre spendiamo di più con dei mangimi di qualità. Sì, sì, è emerso anche da report questo. La carne a fette o trita o i pezzi di biancostato, che comunque è una carne degnissima, anche se è leggermente grassa. I cani non hanno bisogno di una carne particolarmente magra, a meno che non siano molto grassi, allora devono dimagrire, cioè la carne molto magra. Altrimenti le carni marezzate, come per esempio appunto il biancostato, sono perfetti, no? Vedi. E costano poco, quindi perché non prendere questo tipo di alimenti qua? Senti, una delle cose che è emersa, io ho visto sui social, è allora la contrapposizione al mangime industriale è la dieta BARF. Noi sulla BARF avevamo intervistato il dottor David Bettio, che tra l'altro è stato uno di quelli dei medici veterinari intervistati, sì, su Report. Quindi chi vuole può andarsi a recuperare l'intervista al dottor David Bettio sulla BARF sul podcast sul sito di Radio 24. Però voglio dirti, non c'è soltanto la BARF. No, la BARF, poi naturalmente la BARF è, come dire, la posizione opposta, no? Cioè do al cane quello che mi sembra un alimento il più possibile naturale, fisiologico, e cioè parti di animali crudi, essendo che il cane è fondamentalmente ancora un carnivoro, cioè l'intestino è costruito ancora come quello di un carnivoro, anche se per abitudini è po' più onnivoro. Se io gli do parti di animale crudo, diciamo non degenerato dalle cotture o dalle processazioni industriali, quindi così com'è, io gli do tutto quello che gli serve. Da un certo punto di vista, naturalmente, questo discorso è un discorso assolutamente degno, no? Io prendo un coniglio, lo apro e glielo do. Cioè, sì. Il problema è che non funziona esattamente così, ci vuole la catena della distribuzione che garantisca che questo pezzo di animale non cotto, che non sarà cotto, sia mantenuto in condizioni ragionevolmente pulite, diciamo in ordine, no? Anche se non è che tutte le contaminazioni siano dovute al cibo crudo. In America c'è stato uno scandalo per alcuni casi di salmonellosi da pet food, da crocchette. Quindi assolutamente non è che sono soltanto lì. E poi naturalmente quelli che usano la BARF tendono a congelarli, questi cibi, no? In modo da abbattere la maggior parte, se non tutti, tutte le cariche batteriche esagerate, non tutte, come ho detto. Uh-huh. E poi la BARS prevede anche che il cane sia capace di consumare queste parti animali, cioè per esempio se tu hai un cagnolino piccolo con i denti, certo, di un cane toy che non è abituato e devi dare le cose a pezzi, magari lo metti un po' in crisi, no? Cioè, certo, un conto se ci nasce, un conto se lo trasformi in bassista quando ha 9 anni, certo, e gli dai lì un pezzo di animale intero, una cosa difficile. E poi mi sembra BARF escluda i cereali del tutto? La BARF non usa i cereali, cosa che tra l'altro appunto è assolutamente legittimo, perché non ne hanno bisogno dei cereali, quindi li possiamo usare, che hanno i loro scopi, per esempio forniscono fibra e poi neutralizzano un po' dell'eccesso di flora batterica putrefattiva che altrimenti, uh-huh, nei carnivori diventa un po' esagerata, però si può benissimo farne a meno dei cereali. E quindi una persona che voglia passare ad una dieta naturale fresca, che non sia la BARF, sì, no? Che cosa dovrebbe, come si deve organizzare? Innanzitutto deve far visitare il cane dal suo veterinario, perché poi voi mi avete definita esperta in nutrizione, che non è, perché io non ho una particolare specializzazione, ho una passione che è una cosa diversa, okay, ma qui uno studia, approfondisce perché gli piace, però tutti i veterinari sono esperti in nutrizione, quindi vanno al veterinario e gli dicono: io vorrei cambiare dieta. Lo so, però è successo che tutti i veterinari, e dopo il servizio di report, i miei amici che mi conoscono mi chiamavano dicendomi: oddio, alcuni addirittura che hanno avuto cani, parlavamo ieri con Gianni, che ha il cane che ha avuto un sacco di dermatiti, continuano a farlo rimbalzare da un mangime all'altro, il cane la dermatite ce l'ha più o meno frequente, ma nessuno mai gli prospetta l'alternativa del Ma se tu glielo chiedi, però vedrai che anche i miei colleghi più resti, che magari non hanno voglia, tu dici sei ottimista. Certo, perché comunque il veterinario è sempre un veterinario. Sì, forse ora dopo report sì, ti dico la verità. Prima di report non lo so. Però. Prima di report ci sono tanti colleghi di barba. Sì, certo, però, ci sono tanti colleghi. No, ma certo, ma in tutto c'è tutto. Non sto dicendo che sono solo così, ovviamente. A individuare quelli più aperti. Vabbè, insomma, dire, quindi più la persona a casa si rivolge al proprio veterinario e gli dice: bene, allora adesso aiutami. Innanzitutto controlla un po' come sta il cane, no? Sì. Perché poi magari si scopre che il cane ha problemi da qualche parte, o che magari la dieta che ha fatto fino a quel giorno lì non andava per niente bene, certo, per lui. Per esempio magari ha i grassi alti nel sangue, un po' il colesterolo, per i ceri. Insomma, uno vede un po' come il cane sta. Se non ci sono problemi, si consiglia con il suo veterinario per il passaggio. Certo che il passaggio al cibo fresco dovrà essere graduale, soprattutto se il cane non tocca mai davvero niente al di là delle crocchette, perché poi molti cani mangiano le crocchette, però a tavola gli dai qualcosa, questo e quello, quindi nello stomaco di quel cane lì anche cibi freschi sono capitati, no? E quindi magari è già un po' avvezzo, perché se noi non introduciamo mai certi tipi di alimenti, succede che l'organismo risparmia e certi enzimi finisce per non produrli. Sì. Certo. E quindi io mi trovo poi con un'insufficienza digestiva se gli do tout court alimenti vari, al giorno dopo gli do la ricotta, poi gli do la carne di manzo, poi gli do il pollo, il tacchino, il riso, poi gli do le verdure, certo, la foglia verde, certo, e quello non mi digerisce più, per cui le cose vanno fatte gradualmente, cominciando con due o tre alimenti base, e poi una volta introdotti quelli, pian pianino io mi posso andare ad allargare, no? Certo. Poi ci sono dei cani che digeriscono tutto come gli struzzi, e altri che sono più delicati, per cui bisogna stare un po' attenti, ma non è neanche possibile che ci siano tutti questi cani che non possono mangiare che non una proteina soltanto su tutto il pianeta, cioè non è possibile questo. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa intervista, Barbara, quindi l'invito è a rivolgersi al proprio veterinario dicendogli: beh, senti, io propenderei anche per questa scelta dell'alimentazione fresca, aiutami. Certo, io lo trovo il tempo, no? Uno gli dice: lo trovo il tempo per fare la pappa al cane, che così è più contento, e su questo non ci piove, visto che i nostri cani fanno una vita spesso un po' monotona. Tante volte l'esplorazione libera gli è, insomma, vietata o molto limitata, per cui tra gli arricchimenti della vita c'è il cibo. Il cibo. Non intanto e solo per il gusto, che naturalmente ne è la parte principale, e naturalmente anche per la questione sanitaria, ma per le tessiture dei cibi, le densità, le consistenze, gli odori. che sono diversi e permettono al cane di fare esperienze, no? Cibi morbidi da leccare, duri da scrocchiare, durissimi da rosicchiare, altri che sono cedevoli, che vanno masticati, morsicati. Questo, tutto questo fa bene anche alla salute mentale del cane, psicologicamente, fa bene ai denti, fa bene a tutto, insomma. Grazie Barbara, come al solito preziosa. Grazie Barbara Gallicchio. Un abbraccio, a presto. Allora, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, perché io me ne mangio. Vabbè, un mito. Albertone, Alberto Sordi. Provochiamo anche i nostri cani anche quando il cibo fresco, quando dovessimo propendere per questa scelta, possiamo anche farlo. Poi seguiamo sempre i consigli del veterinario. Allora, adesso, visto che siamo sotto Natale, sicuramente tutti, se non avete già preparato l'albero e il presepe, lo state facendo. Ma si può anche rifare per rispettare le norme di sicurezza per i nostri cani. Esatto, ci sono dei piccoli accorgimenti, come per esempio, intanto, vabbè, per quanto mi riguarda, se si dovesse prendere un albero vero, un pino vero, sarebbe meglio con le radici, in modo che dopo si pianta in giardino. Bravissima. Si regala a qualcuno, piuttosto che segare alberi così a vuoto, senza senso. Però se si prendono gli alberi veri, a un certo punto perdono gli aghi di pino. Quegli aghi di pino, se li ingerisce un cane, canino piccolino, è un po' pericoloso, quindi per certi versi importante forse... anche la posizione, perché è meglio posizionare per chi ha animali un albero in un angolo, perché così può essere sostenuto dalle altre due pareti, la caduta accidentale diventa meno probabile. Sì, o in un angolo, oppure dice anche in un posto un po' rialzato, ma non troppo, perché se si cappotta gli va addosso. C'è scritto sull'articolo di Green Style. Ah, ecco. No, l'altra cosa è, ovviamente, siccome quando c'è, se ci fosse un albero vero oppure no, è capace che vedono un oggetto nuovo in casa i nostri cari animali, no? Dicono: questo che è? Questo che cos'è? Dice: abituiamoli piano piano. Se non gli vanno attorno, magari lo fanno cadere. Quindi attenzione, ci possono essere delle cadute accidentali. Per fare questo, posizione in un angolo così che ci sia sostegno dalle due pareti, la base è molto pesante per molto chi ha pesante cani. Coprire il davanti, perché se vogliono marcarlo, mettere dei pacchetti finti in modo che non vadano a di marcare, evitare l'accesso lì, ma sì, evitare l'accesso è anche importante per evitare che vadano a rosicchiare per esempio i fili elettrici. Sì, non solo quello, gli addobbi dell'albero sarebbe meglio mettere le palline più piccole in alto, perché sennò se magari se le ingoiano i cani possono saltare e prenderle, quindi meglio mettere le palline più grandi in basso. Oppure addirittura dice: se addobbi quelli di stoffa, che se vogliono giocarci se lo staccano, come un giocattolino. Se volete attaccare E poi forse è meglio evitare gli alberi troppo alti da questo punto di vista, perché non si sa mai, magari cade ugualmente l'albero se va addosso al cane, ovviamente questo non gli giova. Esatto. Poi insomma, mi sembra che abbiamo detto tutto per l'albero, la posizione, i pacchi decorati, mi raccomando. I pacchi decorati servono, anche fasulli, anche se non ci sono dei regali, servono ad evitare l'accesso del cane vicino all'albero. E comunque Vaira non mi ascolta, perché l'avevo già detto io prima. Ma tu hai detto adesso le cose dei pacchetti, mi toccava dire come. Vabbè, ascoltiamoci il traffico, va. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta tutti i giorni alle 9 Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci, al mondo dalla prospettiva del mondo animale per quest'ultimo blocco. Ogni tanto le diamo delle notizie anche inerenti al resto del mondo animale, non solamente dei cani. E a me è balzata all'occhio una notizia fantastica di una ricercatrice italiana, Elena Kummer, giovanissima poi, credo, fra l'altro, poi ci dirà lei magari quanti anni ha, che ha vinto un premio importantissimo. Sì, questo premio è stato, c'è questo concorso praticamente che ha lanciato la Lush Cosmetics. Hai presente Lush? Che ti dico sempre: compriamo i prodotti di Lush perché non vengono testati, perché sono vegetariani, perché riducono al minimo non il packaging, non fanno male, sì, esatto, ecco, non inquinano. Comprate Lush, una pubblicità progresso, no? Queste cose qua, perché Lush ha anche stanziato 450.000 sterline questo montepremi, chiamiamolo così, montepremi, non so se si può dire in questo caso, però viene messo a disposizione di ricercatori che adoperano per il bene del mondo, del pianeta tutto, quindi cercando di inquinare il meno possibile. E in questo caso si sta parlando di sperimentazione animale legata alla cosmetica. Sì, esatto, io, beh, proprio questo è l'intento di Lascio. Quindi siamo in linea con Elena Kummer, che è una ricercatrice appena laureata. Elena? Ciao, sì, appena laureata a luglio. Allora, fresca di laurea. Quindi, raccontaci un po', ma quindi tu hai avuto un'idea per poter testare un prodotto a fini cosmetici, ma non sugli animali. Allora sì, è stata un'idea del team, quindi insomma nel laboratorio, uh-huh. E che appunto si focalizza sulla ricerca di metodi alternativi senza l'utilizzo degli animali in ambito cosmetico, quindi in particolare ci occupiamo di dermatite allergica da contatto. Quindi l'obiettivo del progetto è quello di andare a trovare un metodo che possa quindi testare e dirti se una sostanza può essere un sensibilizzante o meno utilizzando soltanto delle linee cellulari. La cosa più innovativa del metodo è il fatto che si possa anche dire il grado di potenza dell'allergene, quindi non solo se una sostanza può essere sì o no allergene, ma anche se anche qual è la sua potenza, quindi il rischio insomma della sostanza. Ecco, vedi, quindi così noi siamo tranquilli e sicuri pur non avendo testato queste sostanze sugli animali, che poi ricordiamo dal 2013, secondo questa legge europea, mi sembra, sì. Non si può più a fini cosmetici testare sugli animali, il che ci fa molto piacere, perché tra scimmie, conigli, roditori, cani, galline, eccetera, insomma, c'era senti, ma io, sai, fra le varie leggende metropolitane, quando poi è passata questa legge che ha reso contenti tutti noi amanti degli animali e sensibili un po' del pianeta a 360 gradi, si è sempre sentito dire che quella legge valeva per chi per un nuovo che metteva su un'azienda nuova, ma per i vecchi marchi che avevano utilizzato i vecchi metodi potevano continuare con quei vecchi metodi. È vero questo? No, nel no. senso che se le vale sostanze sono già state testate in passato, allora ovviamente possono continuamente essere utilizzate, certo. Quindi non è che i prodotti vengono tolti dal mercato. Per tutte le nuove sostanze utilizzate solo in ambito cosmetico, questo chiaramente non è possibile. Ah, ok, quindi vale per tutti, marchi vecchi sì. o nuovi. Sì. Senti, cos'è che ti ha spinto a te a questa scelta? Una domanda più personale. Io ho iniziato a fare la tesi in tossicologia nel mio corso di laurea, dove è obbligatoria un anno di tesi prima della laurea. E lì ho scelto appunto questo laboratorio anche perché mi avevano detto che non si sarebbero utilizzati animali nella ricerca, quindi già questo mi aveva entusiasmato. E poi pian piano, durante il percorso di tesi, mi sono sempre più affezionata, diciamo, a questo ambito, a questo progetto. E per cui poi abbiamo tentato anche con questo premio Lush per cercare di dare anche noi insomma il nostro contributo. Ma certo, ma infatti no, poi tra l'altro è una precisazione di quello che stavamo dicendo prima, questo premio della Lush è proprio stanziato per poter cercare dei metodi alternativi alla vegetazione che ci sono, perché noi tempo fa abbiamo intervistato fratalità una persona che aveva fatto la sperimentazione animale, ti ricordi, Angelo? No, chi? Sì, per la radio, che io ero impazzita, gli ho chiesto qualunque cosa. Ah, ma sì, Gianni Tadolini. Che lui ci raccontava che a un certo punto si è pentito, ha visto e vissuto delle situazioni imbarazzanti e sostiene che che si può assolutamente andare in questa via, che non c'è assolutamente bisogno degli animali. Poi c'è un eccesso, uno spreco di vite animali, che insomma la situazione si può cambiare. Speriamo che si vada veramente in questo senso. Tu hai cani e gatti, Elena? Io ho un cane e un gatto. Hai visto, se si fa mancare niente. Tu hai un polso un po' che si sta andando verso questa direzione, o lo vedi un percorso ancora lento, lungo, vedi la gente che rimane ancorata ai vecchi metodi? Beh, per quanto riguarda l'ambito cosmetico, ma soprattutto per quanto riguarda la dermatite allergica da contatto, sicuramente c'è un grandissimo sviluppo, un grandissimo progresso. Non so dirti poi negli altri ambiti, a livello farmacologico, quanto sia possibile ad oggi fare questo salto. Cioè, credo che comunque è un primo passo su determinati tipi di organi, su determinati tipi di studi, sia ancora difficile. Io una cosa invece di questo sono curioso, ma secondo te questa nuova direzione, no, che ha preso la ricerca, è dovuta, cioè la causa è il fatto che c'è stata la legge? E quindi bene o male queste case, no, produttrici di cosmetica, case farmaceutiche sono obbligate a muoversi in questo senso, oppure effettivamente i tempi erano maturi per la tecnologia che abbiamo oggi e quindi hanno detto ok, possiamo avallare anche noi, insomma, siamo allora, d'accordo con questa legge. Sicuramente la legislazione ha fatto tanto, questo senza dubbio. D'altro canto, però, in ambito tossicologico bisogna dire che da sempre ci sono le tre R, si chiamano così, della tossicologia, che sono R, refinement, quindi diminuzione, miglioramento, e alla fine replacement degli animali, e quindi un continuo miglioramento delle condizioni degli animali negli esperimenti, una diminuzione del loro numero e poi come obiettivo finale quello di eliminarli negli esperimenti. Per cui sicuramente un lavoro c'è sempre stato fatto a prescindere dalla legislazione. Che la legislazione abbia dato una spinta in più, questo sicuramente, anche perché comunque in generale anche negli altri ambiti è molto controllato, diciamo, gli esperimenti sugli animali, cioè, sono anche più rari. Costosi, sì, sicuramente sono fra l'altro anche più costosi per le aziende stesse, ti ricordi che ci diceva lui? Sì, certo, c'è anche un risparmio. Senti Elena, grazie, siamo felicissimi per te, davvero congratulazioni. Brava, brava tu e tutta l'equipe con cui hai lavorato. E mi raccomando, brava tu e tutta l'equipe con cui hai lavorato. Grazie. No? Quindi bravi tutti quanti e continuate sempre così, vi seguiamo da lontano. Grazie. Buona giornata, buon Natale. Ciao anche a voi. Ciao. Allora, ricordiamo adesso, perché io in queste ultime domeniche prima di arrivare al Natale e al Capodanno vogliamo sempre fare un punto sui botti di Capodanno. Punto sui botti di Capodanno. Sì, abbiamo notizie ANSA riportate qualche tempo fa, circa 5.000 animali che muoiono durante la notte di San Silvestro, quindi a Capodanno. Non vanno lasciati soli in giardino. Vanno distratti, abbiamo... in casa da giochi. Ti ricordi tutto? Sì. Vediamo, andiamo, allora, a braccio. Bisogna... Quindi quando uno ha a casa un animale, in particolare un cane che ha paura dei botti di Capodanno, ha delle fobie sui botti di Capodanno, Rosita Celentano ci dà dei consigli. Allora, numero uno, mettere su un DVD o un CD dei Muse a palla di cannone, così almeno non sente i botti di Capodanno. Il cane sempre sta... che anche col CD sia gradito al cane, non li faccia venire l'orticaria. No, sì, appunto. No, è impossibile, i Muse no. Allora, no, bisogna camuffare i rumori dei botti con dei suoni diversi. Devi attutirli abbassando le tapparelle, mettendo il cane in casa. Cioè, che poi abbassare signorina le tapparelle. Rottermeier di Heidi è qui che mi vuole interrogare. Chi la deve fare? Tutti questi altri che devo campare. Eccoli. Grandi! Vedi, se metti questo, il cane non ha paura dei botti, capisci? Ha paura della chitarra elettrica. Senti, allora, no. Quindi attutire i botti abbassando le tapparelle, alzare la musica della radio oppure il volume della TV, invitare a casa degli amici in modo che possano attutire, coprire. Stare dietro al cane, non trasmettere la tua ansia a lui, lo devi coccolare, lo devi distrarre, lo puoi distrarre facendo dei giochetti, dei premietti, e soprattutto non li devi lasciare solo in giardino se uno c'ha il giardino. Perché? E mollarli lì e festeggiare dentro. Ma perché quando hanno paura dei botti rischiano, come hai raccontato tu diverse volte, che questi per scappare rimangono impiccati i cancelli oppure vanno in ansia, insomma è pericoloso, si, ragazzi. Si fanno male. Ma se uno ti dice scusa, ma il mio cane in casa non lo voglio che lascia il pelo, ha paura, fa niente, si deve stare fuori. Ah, se non volevi lasciare il pelo non lo prendevi, il cane, se uno prende un cane si deve prendere cura del cane, se il cane c'ha paura gli devi star dietro e devi sincerarti che il cane stia bene. Grande, dammi un 5. E detto ciò, mi raccomando, ci vediamo domenica prossima che vi bacchetto ancora una volta per i botti di Capodanno. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Ciao da Angelo Vaira e da Ciccio Formaggio.